Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio e a tutti naturalmente, soprattutto buon 25 aprile. Noi siamo qua come tutti i giorni a parlare anche oggi di denaro, non vi diamo tregua neanche nel giorno della liberazione, è una vacanza a metà per noi perché le borse sono aperte, Salva Danaio lo segue come sapete, per cui eccoci qua in diretta anche oggi. E però siccome molti di voi saranno o a casa o magari in auto per una gita fuori porta, vi teniamo compagnia con un tema particolare, un tema che so già molti di voi seguiranno con interesse e attenzione e anche con passione, altri invece ce lo contesteranno fin dall'inizio con il rilievo al quale ormai siamo abituati, comprensibilmente peraltro, da mesi. Ma quale risparmio se non ci sono neanche i soldi per arrivare alla fine del mese? Eppure ci sono molti risparmiatori in Italia e molti investitori che stanno scoprendo un settore che nel nostro paese è stato fin troppo a lungo molto trascurato, perché considerato anche a ragione per certi versi un campo elitario. Parliamo del settore dell'arte, dipinti, sculture, litografie, antiquariato, gioielli e chi più ne ha più ne metta, ambiti che, se ben conosciuti, possono dare l'opportunità di investire e anche con un certo profitto. Non è necessario possedere un Van Gogh o una cassettiera del 1600 per avere la certezza di avere pezzi di pregio. Anche l'arte contemporanea offre molte opportunità e molte persone diversificano il proprio portafoglio finanziario scegliendo di investire in opere d'arte antiche e moderne, in beni rifugio, gioielli, monete antiche e orologi. L'aspetto positivo di questi investimenti è senza dubbio intanto la possibilità di ottenere, come dicevamo, una discreta rivalutazione economica nel tempo, se si ha la fortuna e l'abilità soprattutto di scegliere l'oggetto giusto. Si tratta inoltre di investimenti che garantiscono una certa stabilità e un altro aspetto positivo è che si tratta di un settore che si muove in maniera del tutto indipendente dal mondo finanziario appunto, e quindi si riesce anche a tenere lontano dalle turbolenze che abbiamo visto per esempio negli ultimi anni. Se c'è invece un aspetto negativo da mettere in evidenza è che i profitti chiaramente arrivano solo nel momento in cui si sceglie di vendere, non è un tipo di investimento che permette di avere delle, per dire, cedole fisse come accade invece per un titolo azionario o un'obbligazione. E inoltre rivendere il bene non è semplice come acquistarlo, liquidarlo spesso è un processo complesso. Allora, tutto questo per dire che è un mondo che va frequentato con grande attenzione, ma si può fare, ci si può muovere non solo assecondando i propri gusti artistici, ma anche intercettando quei filoni artistici destinati ad avere consenso e i canali giusti per investire in questo campo. Muovendo da tutte queste considerazioni, ho fatto un preambolo lunghissimo, ha scritto il libro Investire nell'arte, il nuovo oro, come salvare i propri risparmi, un economista che è molto noto nell'opinione pubblica per altri temi, non per le sue riflessioni di carattere artistico, Claudio Borghi Aquilini, che questa mattina ci fa compagnia in questo 25 aprile. Professor Aquilini, la chiamerò così questa mattina, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, lo sentite molto spesso in altre nostre trasmissioni, ma soprattutto, oltre ad essere docente di economia degli intermediari finanziari, lo conosciamo perché è ospite di numerose trasmissioni televisive e anche le nostre radiofoniche, editorialista economico per il Giornale, è noto per le sue posizioni sull'euro molto dirompenti, diciamo così, e spesso gli capita di dover spiegare che se si tornasse all'euro in Italia non sarebbe poi questa grande tragedia, anzi lui valuta questa come una circostanza molto probabile per il nostro paese. Però oggi, Borghi, non parliamo di questo, promesso? Promesso. Che non vogliate voi, ma no, certo, anche perché ho visto che questa mattina ha già twittato questo messaggio appunto sui social network, su Twitter in modo particolare, intimando a tutte le persone che la seguono, fate i bravi, ho visto che ha scritto, oggi parliamo di arte, non di euro, ma anche noi lo facciamo molto volentieri perché il suo libro, io l'ho letto molto velocemente in questi giorni, è molto interessante, è scritto molto bene in maniera anche molto chiara, per cui ci deve subito dire intanto come le è venuto in mente di scriverlo, perché lei si occupa di tantissime cose, no? Per cui volevo capire se intanto ha avuto l'idea di approcciarsi al mondo dell'arte, perché in primo luogo era mosso da una sua passione personale, Borghi. Ma sì, no, comincio a dire che io odio scrivere libri. Preferisco, ma non si direbbe, perché non mi è sembrato un impegno così faticoso, data la qualità anche con cui è scritto, lo dico per questo motivo. Sì, ma perché se faccio una cosa mi piace farla bene, però non mi sono divertito, ecco, se voglio dire, perché io da, diciamo, editorialista preferisco le cose brevi. Solo che stavo vedendo che c'erano dei cambiamenti così forti nel mercato dell'arte e soprattutto stavo vedendo un'opportunità notevole di spiegarli, perché dall'altra parte avevamo tutte le principali forme di investimento che stavano rivelando delle debolezze assolutamente insospettabili solo fino a poco tempo fa. E insomma, in una maniera o nell'altra, però non lo scriveva nessuno, allora ho detto, vabbè ragazzi, qualcuno però lo deve pur fare. E allora, dato che mi sembrava un cambiamento epocale, era un grosso peccato non parlarne o non divulgarla. Per le cose dell'euro bastano gli articoli di giornale, oppure ci sono dei miei colleghi che hanno scritto delle cose molto più belle di quelle che avrei potuto fare io. Qui non scriveva nessuno, ho detto, ragazzi, Borghi, rimboccarsi le maniche e scrivere, perché non si può non informare. Allora, 800 24 00 24, chiaramente anche oggi possiamo dare l'opportunità ai nostri ascoltatori di interagire con noi, quindi se volete utilizzate come sempre il numero verde, oppure scriveteci al 349 238 6666, scriveteci al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, scriveteci anche su Facebook e su Twitter, siamo anche lì, così come c'è Claudio Borghi, e noi chiaramente commenteremo con voi questo argomento, e se volete lo potete anche contestare, come già ci aspettavamo appunto che qualcuno facesse. Ancora non vedo però chi scrive, ma insomma non parlate di queste cose perché nessuno ha soldi da spendere per investire nell'arte. Non è così, anche questo magari, Borghi, è un pregiudizio che possiamo subito sgombrare, un equivoco di fondo che possiamo subito sgombrare, perché si possono fare anche degli investimenti di taglio ragionevole. E addirittura ho visto che ad un certo punto del libro, poi noi qualche parte la leggeremo insieme, ha scritto che è un mercato sul quale si può investire con progressione, esattamente come si fa per esempio con un fondo di investimento e il piano di accumulo. Ho notato questo parallelismo, è così? No, certo, è molto più divertente, ma soprattutto bisogna smentire radicalmente l'assunto iniziale, vale a dire, non è che stiamo parlando di spendere. Io posso capire, uno dice, vabbè, ma qui non ce la facciamo arrivare a fine del mese e qui mi stai parlando di spendere soldi per i quadri. No, io ti sto proponendo di investire in un'opera d'arte cercando di spiegarti come farlo. E dall'altra parte poi dopo ricordiamo una cosa, che quando uno compra qualcosa, dall'altra parte qualcuno la vende. Per cui quando uno mi dice, hai comprato un quadro quando la gente non arriva a fine mese, io dico, beh, mi piace pensare che qualcuno è arrivato a fine mese perché il quadro l'ha venduto. Allora, d'altra parte, i soldi non è che spuntano dal cielo, infatti. Quindi se uno compra, i soldi vanno a qualcun altro che evidentemente aveva oculatamente comprato un quadro prima e poi l'ha venduto. Quindi consideriamo questo settore non più elitario come poteva essere considerato fino a qualche tempo fa, e consideriamolo appunto proprio come un segmento di investimento, un qualcosa, un luogo alternativo a quel luogo che ci piace di più di tutti in questo momento, che è il materasso, perché diciamolo pure chiaramente, ci sono molti italiani che hanno la grande tentazione di tirar via tutto dalla banca e portare tutto quanto a casa. Allora, tra l'altro, Borghi, lo sai che questa mattina c'è stato un nuovo record che è stato stabilito a Londra per la compravendita di un diamante di colore blu intenso di 5,30 carati incastonato in un anello, che appunto a Londra è stato venduto per 6 milioni e 200 mila sterline, circa 7,3 milioni di euro. Questa è una transazione che è stata curata dalla casa d'aste Bonhams. L'anello è stato realizzato da bulgari, ha raggiunto 1.800.000 dollari per carato, battendo il record precedente per un diamante blu di 1,68 milioni di dollari, sempre per carato. Questi diamanti blu sono molto rari, il più celebre è il diamante Hope, acquistato da re Luigi XIV, antico gioiello della corona di Francia. Aveva letto questa notizia stamattina? Sì, l'ho letta, ogni tanto capita che ci siano dei record sui diamanti, e tutto sommato il tipo di cambiamento del mercato del mercato degli investimenti alternativi è abbastanza simile, vale a dire, io ho impostato buona parte della mia narrazione nel libro a quanto sta cambiando, vale a dire, da un mercato che effettivamente, come giustamente hai detto tu prima, era elitario, può diventare popolare, ma non è che diventa popolare perché uno può comprare il diamante da 10 milioni o così questo tipo, diventa popolare perché uno può vedere i prezzi. E allora a quel punto lì, grazie a internet, grazie alle nuove tecnologie, lasciamo da parte ovviamente queste situazioni che sono legate all'unicità del bene. Quel diamante lì non è che sul mercato ce n'erano altri, c'era solo quello. Mm-hmm. Per cui il prezzo è totalmente virtuale, così come ogni tanto qualcuno mi chiede: ma la Gioconda, è vero che la Gioconda è senza prezzo? E gli dico: no, non è vero che la Gioconda è senza prezzo, la Gioconda non è in vendita, è molto differente. È diversa, infatti. Ma nel momento stesso in cui uno la Gioconda la mettesse in vendita, state tranquilli che un prezzo lo troviamo. Lo troverebbe, magari qualche sceicco arabo avrebbe probabilmente anche le risorse per poterselo portare a casa. No, ho letto questa notizia su questo record stabilito appunto per questa compravendita di questo diamante blu, perché una lunga parte del libro è dedicato anche al funzionamento delle trattative nelle case d'asta, quindi come è composto questo mondo, che cosa succede, come si formano i prezzi, come diceva anche Claudio Borghi, oggi in maniera sicuramente molto più trasparente rispetto al passato, e questo è anche proprio un aspetto che ha reso molto più accessibile il mondo dell'investimento nel mercato dell'arte rispetto appunto a quanto non accadesse prima. Detto tutto questo, cominciamo a leggerlo insieme questo libro, sentiamo la prima parte che abbiamo appunto tratto da Investire nell'arte, il nuovo oro, come salvare i propri risparmi dalla crisi, di Claudio Borghi Aquilini. Come mai, mentre le borse mondiali crollano da anni sotto i colpi della crisi, le aste di arte moderna e contemporanea fanno segnare sempre nuovi record? Certo, il quadro è un bene reale, non risente di pericoli di cambio di moneta. Spesso, come l'oro, non è neppure tassato e quindi mette al riparo dalla fame di denaro dei governi e dai rischi di tasse patrimoniali. Tutto ciò non basta però a spiegare un andamento così divergente fra le sofferenze dei beni di investimento tradizionali e l'entusiasmo che avvolge il mercato planetario dell'arte e che, ancora una volta, vede l'Italia in grave ritardo. I grandi cambiamenti cominciano sempre così, con pochi pionieri che segnano la strada e poi sempre più persone che seguono le loro orme, mentre tutti gli altri osservano perplessi uno strano flusso in controtendenza. Il mondo dell'arte è finora stato quasi segreto. Il grande pubblico si accontentava delle mostre senza domandarsi il valore delle opere che andava ad ammirare o persino se fosse possibile acquistarne di simili, mentre il vero mercato era riservato a un'esigua minoranza. Anche chi da tempo comprava quadri di pregio spesso lo faceva senza seguire le regole di un meccanismo efficiente, magari guidato da un ottimo intuito, ma pur sempre all'interno di un ambito non trasparente. Da qualche anno, però, il mercato dell'arte si sta trasformando profondamente e le ragioni del suo successo sono da ricercarsi proprio in questi cambiamenti, arrivati in notevole ritardo rispetto alle asset class tradizionali a causa delle peculiarità di questo settore. L'arte è oggi dove erano i mercati azionari negli anni Ottanta, quando il grande pubblico cominciò a scoprire un campo di investimenti che esisteva da sempre, ma era considerato esclusiva di pochi iniziati. L'arte, però, per l'uomo significa anche socialmente molto altro. Da sempre è stata anche un termometro di svolte epocali. L'arte è diventata di moda. 800 24 00 24, numero verde per le vostre telefonate, siamo in diretta anche oggi. Borghi, se fosse stato preoccupato, è già arrivata la prima contestazione. Fantastica trasmissione, ci scrive Alessandro. Per miliardari annoiati, complimenti signora Rosciani, ottima marchetta. E vabbè, quante se ne sente dire quando presenta il suo libro in giro per l'Italia di riflessioni un po' folcloristiche come questa, Borghi? Ma devo dire la verità, poche, perché se uno così prende la briga di andare a vedere una presentazione di un libro che parla di questo argomento, probabilmente gli interessa. Però altrimenti invece per mail e via Twitter e così via ne sento, senza dubbio. Però ecco, bisognerebbe spiegare a chi ha questo dubbio perché dall'altra parte uno guarda con orrore invece situazioni in cui magari due risparmi, ma anche pochi, in un'obbligazione sbagliata, in un'azione sbagliata, si sono inceneriti, e dall'altra parte quando chi invece magari per la lungimiranza di un padre o di un nonno si era trovato un quadro che invece magari non aveva mai neanche degnato di uno sguardo, e poi dopo alla fine si è rivelato quello che gli ha salvato la famiglia in una situazione difficile. E intanto le dico che stiamo muovendo anche un interesse di altro tipo, e adesso risponderemo anche a Carla da Milano, che chiede: se dovessi vendere un quadro, da chi posso andare? Non essendo truccata, non capisco questa riflessione, comunque dice non essendo esperta, quindi magari le daremo anche qualche indicazione sui passi da fare per poter effettuare, appunto, anche per potersi far fare una stima corretta della propria opera, perché anche lì è un po' come per tutte le cose, no? Come per quando andiamo in banca a chiedere il mutuo, dobbiamo avere, come dire, la cortezza di almeno farci fare i 3-4 preventivi. Forse anche per l'opera d'arte, credo che se qualora qualcuno se la ritrovi in casa una potenziale opera d'arte, Borghi, valga lo stesso criterio, no? Non sentire magari solo ed esclusivamente un ipotetico esperto. No, ma è proprio questo una delle radici del cambiamento. Pensi un po', fino a non molto tempo fa uno doveva andare da un perito che si faceva pagare, così questo tipo. Quindi già soltanto il sapere che cosa si aveva era un inizio pericoloso. Adesso basta andare su un forum, per esempio, non so, io e altri frequentiamo il forum di investimenti in arte e collezionismo all'interno di un sito che si chiama Finanza Online, dove normalmente si parla di investimenti di borsa. Esatto, è un sito che peraltro tutti quelli che magari stamattina ci scrivono contestandoci l'approccio di oggi di Salvadanaio magari vanno a curiosare, perché vogliono fare così l'investimento speculativo su un'azione mordi e fuggi, no? Però magari sì, ecco, quell'area, esatto, lì, quell'area lì del sito neanche la considerano, però in neanche molti la sì guardano, e basta, c'è una discussione che si chiama informazioni one shot su quadri, dove in maniera proprio assolutamente preliminare uno può in tutta libertà mandare una foto del suo quadro dove dice: io ho questo alla parete, secondo voi vale qualcosa? E gli appassionati del settore, così come lo fanno normalmente, si fa normalmente per qualsiasi altro tipo di investimento, possono dare subito una scrematura, no? Del tipo: no, guarda, non, secondo me non vale niente, oppure guarda, una scrematura guardando una foto già su internet, cioè così, una foto semplicemente pubblicandola su internet, si può già fare una valutazione di massima, Borghi? Addirittura? Beh, assolutamente sì, perché se il quadro è di un autore conosciuto, chiunque sia appassionato d'arte può dire: potrebbe essere davvero di quell'autore conosciuto lì. Allora nel quel caso poi occorre fare un secondo step, vale a dire vedere A, se è autentico, e B, se è davvero quello, oppure se è una cosa che ci può somigliare, no? Benissimo. Ma, però già per dire, la prima larghissima scrematura si fa direttamente con una foto, e lo può fare non un esperto ma un qualsiasi appassionato. Chissà quanti saranno già partiti questa mattina a caccia di opere d'arte nella propria cantina o nella propria soffitta, Borghi, no? Perché magari, insomma, possiamo anche dare qualche suggerimento di questo genere. Allora, c'è Costanza da Milano che ci scrive un altro messaggio molto carino. Dice: mio padre è uno scultore con elevate doti artistiche ma nessuna dote di marketing. Come posso aiutarlo a vendere? Ci sono dei suggerimenti anche di questo tipo, Borghi, nel suo libro? Mi pare di no, che sia un po' tutto dedicato invece al potenziale sottoscrittore di un investimento di questo tipo. Però è un aspetto interessante anche questo. Invece ci sono anche, se uno legge fra le righe, ci sono anche dei suggerimenti su questo campo, perché anche per gli artisti sta cambiando, vale a dire che fino a non molto tempo fa le procedure per, virgolette, diventare famosi erano molto rigide ed elitarie, anche quello, vale a dire ci voleva un po' di fortuna, molta abilità di marketing, come dice giustamente la signora, frequentare gli ambienti giusti, insomma, conoscere persone giuste, importante, poi dopo magari fare degli investimenti su se stesso importanti. Adesso è ancora valido questo discorso, però c'è anche la possibilità di farsi conoscere via internet. A un certo punto, se uno riesce a lavorare sulla propria reputazione, anche per dei canali, ripeto, non alternativi, è possibile che il proprio nome cominci a circolare. Un canale alternativo e pionieristico di presa di coscienza dei prezzi delle opere d'arte, e in certi casi delle opere d'arte medesime, è stato il fenomeno tipicamente italiano delle televendite. Su alcune emittenti televisive private si cominciò negli anni Ottanta a proporre in vendita quadri, sculture e gioielli. L'interesse fu subito notevole e il fatturato realizzato sfruttando questo canale è andato progressivamente incrementando, fino a raggiungere un peso percentuale significativo del totale delle transazioni di arte moderna e contemporanea effettuate in Italia. La televendita, sebbene erroneamente vista con fastidio dall'establishment artistico tradizionale, ha avuto un ruolo non trascurabile nella diffusione del prezzo dell'opera d'arte tra il pubblico e quindi nella progressiva traslazione dal mercato di spesa a quello di investimento. Era infatti possibile, per la prima volta, accedere passivamente alla valutazione, da parte del soggetto venditore, del bene artistico posto sul mercato. In precedenza era indispensabile un atteggiamento attivo da parte del potenziale acquirente, che doveva domandare il prezzo al gallerista, recandosi presso lo spazio espositivo, oppure addirittura presentarsi presso le case d'aste. Con la televendita, invece, anche chi non era davvero interessato all'acquisto poteva comodamente assorbire la nozione del prezzo dell'opera, seppur del tutto soggettivo e dipendente dalla convenienza del venditore, da casa propria. Questa popolarizzazione dei valori artistici ha portato conseguenze non secondarie. In primo luogo, ha acceso la curiosità dello spettatore, che poteva domandarsi se anche i suoi quadri, per esempio ricevuti in eredità, fossero di pregio. Secondariamente, ha sancito il fattore dell'oscillazione dei prezzi delle opere d'arte, dato che l'argomento più sfruttato dai venditori è sempre stato la probabile rivalutazione dell'opera. E si dice tanto altro ancora sul canale delle televendite per acquistare ed investire appunto in opere d'arte. Con noi questa mattina, lo ricordo ancora, Claudio Borghi Aquilini, che ha scritto Investire nell'arte, il nuovo oro, come salvare i propri risparmi dalla crisi. Abbiamo proposto questa pillola tratta dal libro dedicata proprio alle televendite perché è un tema che interessa molti degli ascoltatori che ci stanno scrivendo stamattina al 349-238-6666 e soprattutto, professor Borghi, Tina ci scriveva appunto e si chiedeva come mai nelle vendite televisive spesso a poche centinaia di euro si offrono opere di artisti molto noti, perché questi artisti a volte propongono delle produzioni proprio ed esclusivamente destinate alle televendite. È così? Ma no, temo che forse ci sia una confusione magari. Tante volte nelle televendite si vengono proposti dei multipli, vale a dire delle stampe, delle litografie, e allora magari c'è un gran nome che però ha stampato un'opera in 500 esemplari, allora il costo è inferiore. Quindi qualche volta ci si confonde su quello, cioè un'opera unica magari di un grande artista costa moltissimo, mentre invece una litografia costa meno. Poi dopo ci sono stati ovviamente dei casi di artisti anche grandissimi, pensiamo a Mario Schifano, di cui lei racconta, esatto. Appunto, che è stato, diciamo così, messo sotto contratto, no, direttamente da un canale di televendite, e quindi ha cominciato a produrre tantissimo per soddisfare tutte le richieste. E ovviamente funziona un po' come la moneta: se la stampi troppo, poi dopo si inflaziona. Sì, no? Esatto. Per ritornare un po' ai temi con i quali lei ha più maggior frequentazione di recente. Detto questo, io volevo salutare la collega Marilena Pirrelli delle Sole 24 Ore, che è la coordinatrice, la responsabile delle pagine di Art Economy 24, le pagine su questo argomento, quello che stiamo affrontando questa mattina, che ogni sabato escono appunto con Plus 24 del Sole 24 Ore, ma c'è anche la pagina su web Art Economy 24, perché Marilena, che io avrei citato peraltro nel corso della trasmissione, quindi la volevo salutare oltre che rassicurare, che ci sta scrivendo appunto delle mail e ci dice: Debora, ricorda che anche noi ci sforziamo di portare con i nostri articoli trasparenza al mercato dell'arte. Sul mio libro li ho citati. Esattamente, quindi salutiamola con affetto, perché Marilena, anche quando facciamo queste trasmissioni, ci aiuta ad orientarci in questo campo. Allora, Borghi Aquilini, le faccio sentire qualche ascoltatore, sentiamo un po' quali curiosità hanno sul tema di questa mattina. Prima di tutto Eva da Milano, che aspettava da un po', della prima ascoltatrice che si è messa in linea questa mattina. Buongiorno Eva e buon 25 aprile anche a lei. Buongiorno e chapeau per il programma, è meraviglioso. Meno male Eva, perché sa, qua siamo un po' stretti, abbiamo questo conflitto noi nell'affrontare qualche volta certi argomenti, perché in un momento così difficile per tante famiglie ci approcciamo con grande rispetto, però c'è anche chi ha questi interessi, queste passioni, e non vedo perché non ci dobbiamo prendere cura anche di loro. Lei che ne pensa? Certo. E la questione è vasta e molto difficile. Volevo chiederla, il professor Claudio Borghi, la questione è un po' secco: dove esiste a Milano, in Italia, in Europa e al mondo, il miglior mercato per antiquariato cinese e per diciamo, vecchi quadri, tipo vecchi maestri, non conosciuti, non di grande pregio. Eva, la ringrazio. Borghi, questa io non voglio neanche mettere bocca sulla domanda che Eva l'ha fatto. Lei ha qualche notizia da darci sul miglior mercato possibile per l'antiquariato cinese? Allora, confesso che di antiquariato cinese mi intendo molto poco. Per, diciamo, la parte artistica cinese di grande pregio, la piazza per eccellenza è Hong Kong. E anche in questo caso uno dice, vabbè, ma io cosa faccio? Vado a Hong Kong. E certo, da adesso si può andare a Hong Kong stando comodamente seduti a casa propria. Quindi le grandi case d'aste, che dedicano di solito un'intera settimana all'arte estremo orientale, hanno dei bellissimi cataloghi online che possono essere consultati, gli oggetti possono quasi essere toccati, diciamo così, da quanto sono diventate di qualità le immagini trasmesse dalle case d'aste, e poi dopo è possibile fare delle offerte da remoto senza problemi. Senta, invece per quello che riguarda la partecipazione alle aste, no? Chiaramente noi ne abbiamo un'immagine di queste circostanze molto cinematografica, no? Quelle famose situazioni nelle quali arriva sempre la telefonata dell'ultimo minuto con praticamente l'offerta clamorosa che prende tutti quanti di sorpresa. In realtà anche un'asta dà la possibilità ad un piccolo potenziale investitore in questo campo di partecipare comodamente seduto a casa? Anche questo mondo, che ci sembra veramente così elitario, è più vicino a noi di quanto non pensiamo? Assolutamente sì. Ero per dire l'altro ieri a Milano, dove si batteva un bellissimo palazzo del centro l'asta di arte moderna e contemporanea di Christie's, vale a dire la parte del mercato, quella per i ricconi, ecco, diciamola così, no? Perché poi dopo, come vi ho detto e vi dico, ci sono aste o fasce di mercato per veramente tutte le tasche, a partire da poche centinaia di euro. Però ecco, ovviamente, così come c'è l'utilitaria, c'è anche la fuoriserie. Ecco, lì dove si vendevano le fuoriserie c'erano tante offerte, dove invece di essere qualcuno che alzava la mano in sala come al solito, il banditore diceva: l'offerta è giunta online da parte di un compratore. Per cui persino quadri che hanno valori vicini a milioni di euro magari possono essere comprati con un click, che secondo me è una cosa che, se uno non si rende conto di che cambiamento stiamo vivendo, è matto, cioè non è possibile. Noi lo dicevamo anche appunto nella parte iniziale, quando abbiamo proposto la prima scheda tratta dal suo libro. Davvero oggi l'arte come il mercato azionario degli anni 80, un segmento che dava potenzialità, possibilità di investimento, nei confronti del quale però in quel periodo c'era ancora grande scetticismo in qualche modo. Ma io penso proprio di sì, perché un po' perché l'ho vissuto, nel senso che io ho iniziato a lavorare come fattorino in borsa, portavo i fogliettini, no? E quando sono entrato in borsa, e la borsa era quel tempio, diciamo così, per gli iniziati, era proprio così. Ricordiamo semplicemente quando i prezzi delle azioni, quando uno li poteva vedere, il risparmiatore li poteva vedere il giorno dopo sul giornale. Quindi aveva un ritardo di un giorno, immaginiamo un po' adesso, che stiamo parlando di centesimi di secondo, no? Quando è passato al telematico, e allora a quel punto si è dischiuso un mondo, perché la gente in tempo reale poteva vedere i prezzi e quello svantaggio veniva meno. Perché l'arte ha aspettato molto? Perché per l'arte ci vogliono le immagini e quindi ci vuole la banda larga. Ma adesso che è possibile trasmettere le immagini in dettaglio, è possibile vedere i prezzi dei quadri, quindi con il prezzo e di fianco l'immagine, ed è un cambiamento. Certo, questo mercato che era ritenuto anche tipicamente inefficiente, no, dal punto di vista finanziario, perché l'efficienza del mercato è questo concetto generalmente associato alla modalità e alla trasparenza con cui si formano i prezzi e si rendono visibili appunto i prezzi e la formazione di questi prezzi, adesso invece sta diventando più efficiente grazie anche a tutti questi meccanismi. Ne faccio sentire Alberto da Milano, Borghi, perché ha letto il suo libro, e sentiamo un po' che tipo di impressione ne ha colto. Alberto, buongiorno. Alberto. Sì, pronto, buongiorno. Eccoci, non si distragga. Eccoci no, qua. No, non mi sono distratto. Ho qui davanti il libro di Claudio Borghi Aquilini, che ho letto con attenzione. E direi a Borghi questo fatto, che dobbiamo tenere in maggiore considerazione l'acquirente come fruitore, come persona, nel senso che come persona deve poter vedere il quadro e a questo punto avere quell'emozione che solo un originale può dare, quindi non un'incisione, queste cose che costano poco e non si sa bene quante ce ne sono in giro, deve avere questa emozione che gli dà una motivazione nel possibile acquisto ben superiore al fatto dell'investimento, ossia questa soddisfazione del gusto o anche solo del valore del possesso di avere un bel pezzo è secondo me ma molto superiore al fatto che acquistando un pezzo oggi a 1000 lo possa rivendere a 10.000. Alberto, però credo che nel libro Borghi adesso ce lo conferma, ma per la verità io ho anche sotto la pagina in cui questo concetto viene appunto spiegato, il concetto del gratificante possesso diretto dell'opera d'arte, Borghi. Credo che lei sia d'accordo con quello che diceva Alberto, non è che si voglia demonizzare un aspetto piuttosto che un altro. È solamente Sono d'accordissimo, solo che bisogna separare due cose. Allora, il piacere del possesso dell'opera d'arte non lo toglie nessuno e quindi è uno dei vantaggi notevoli di poter avere, se uno non è motivato. Io la differenza che faccio, che l'esempio che spesso porto è il seguente. Uno potrebbe anche investire nel comprare una vigna in Toscana, no? E magari poi dopo rivenderla con profitto. Ma se uno fosse appassionato di vita di campagna, cioè quindi gli piacesse davvero fare il vino, fra i due il ritorno dell'investimento di chi ha semplicemente comprato e non ci ha mai messo piede e quell'altro che invece la vive è incommensurabilmente superiore per il secondo. Ma il parallelismo lo si può fare anche per il mercato immobiliare, per esempio. C'è sicuramente un prezzo di mercato per la casa magari che scegliamo dove andare a stare, ma se noi vogliamo assolutamente andare lì magari conferiamo a quell'abitazione un prezzo maggiore, no? Perché vogliamo assolutamente stare. Adesso non so se ho fatto un un parallelo, però è giustissimo, ma quello poi ovviamente sta alla sensibilità del singolo. Supponiamo che ci sia un quadro che ritrae un particolare scorcio, no? Per dire che a noi fa un'emozione particolare. Allora a quel punto uno dice no, io lo voglio a tutti i costi. E allora quello è tutto un altro discorso. Dove cerco di intervenire io è far capire che normalmente per un quadro che magari ti dà le stesse emozioni è possibile sapere correttamente il prezzo, mentre invece in passato uno così si beveva il prezzo del venditore che gli veniva detto, e poteva essere, gli diceva cosa costa il quadro? 50, poteva essere che dall'altra parte ci fosse lo stesso quadro, un quadro molto simile a 10, ma noi non lo sapevamo. Certo, quindi anche sì. Quanto spendere? Spesso si assegna a questa domanda un'importanza eccessiva. Infatti non c'è una risposta vera, così come non ha senso chiedere genericamente quanto si deve spendere per acquistare una casa. I budget sono diversi per ciascuno e la scelta della quantità del proprio risparmio da allocare in una tipologia di investimento è cosa assai personale. Va al più detto che l'investimento in opere d'arte non è assolutamente un discorso limitato a ricchi o benestanti in genere. Anche collezionisti poi diventati famosi si erano imposti di non impiegare mai cifre importanti in un singolo acquisto, ma ciò non ha impedito loro di realizzare grandi fortune. Non si può individuare un limite inferiore di prezzo per un'opera d'arte. Anche lavori di grandissimi maestri possono essere acquistati per cifre alla portata di tutti, sempre che si sia disposti a scendere a compromessi sulla qualità del dipinto, sulla tecnica e sulle dimensioni. Un tipico argomento di disputa tra collezionisti è se sia meglio acquistare un quadro grande e importante di un artista minore o più giovane, oppure un'opera magari piccola e su carta, ma di un pittore più celebre e costoso. Ebbene, proseguendo il parallelismo immobiliare, si tratta di una questione simile al domandarsi se sia meglio un monolocale in centro o una casa grande in campagna, destinata quindi a non avere alcuna risposta definitiva e che rientrerà nelle scelte personali di impostazione della propria collezione. Certo, se poi chiaramente non ci si fa anche gabbare sul prezzo è anche meglio, però è anche vero appunto che per un'opera d'arte forse un po' di prezzo lo stabiliamo anche noi in quanto appassionati di certi ambiti di investimento. Claudio Borghi Aquilini, c'è un ascoltatore che ci scrive: dell'obbligazione della mia banca non mi appassiono di certo, cosa succede se mi innamoro di un'opera d'arte comperata per investimento? E beh, la si tiene, magari la si liquida solo se si ha stretta necessità, nella teoria. Beh, è quello che dovrebbe succedere, perché il fatto è questo, che la scelta è molto ampia, no? Per cui potendo scegliere fra tanti quadri che potrebbero in teoria avere delle possibilità di rivalutazione, tanto vale comprare quello che ci piace molto. Quando un quadro è veramente un amico, insomma, quando si appende in casa, poi dopo lo si vede più spesso della moglie. E quindi ma sarà contenta sua moglie Borghi? Beh, ma anche lei vede più spesso il quadro, anche lei vede più spesso il quadro che lei, di me. Vabbè, ma lei è sempre ospite di un sacco di trasmissioni. Tra l'altro, a proposito di costi e quanto spendere, c'è l'ascoltatore Fabio che su Facebook ci scrive: per favore ditemi il prezzo del libro, grazie. Allora, non ho ricordato che è edito da Sperling Kupfer, costa 17,90 euro. Hai in mente anche di fare la versione ebook, Borghi? C'è già, perfetto. Ecco, infatti anche Marco Lombardo me lo stava dicendo: io preferisco, un po' come il quadro, avere il libro tra le mani. Ancora proprio all'ebook non mi sono convertita completamente, saranno felici le mie amiche che invece mi suggeriscono di farlo. Le faccio sentire Angelo da Roma, Borghi. Angelo, buongiorno. Rapidissimo, buongiorno. Perché qua, guardi, in realtà stanno spuntando tantissimi appassionati con tante domande, dovremmo rifare questa trasmissione al più presto. Angelo, buongiorno. Buongiorno, io volevo sapere se c'è un interesse anche sul, o meglio, se c'è la possibilità di fare investimenti anche su libri antichi e su stampe. Mm-hmm. Angelo, credo proprio di sì. Borghi, altro che. Assolutamente sì, ci sono, è un mercato più piccolo, quindi meno liquido, quantomeno quello dei libri antichi. Le stampe invece, quando sono di grande pregio, sono trattate esattamente come i dipinti. C'è una certa differenza fra le, diciamo così, le litografie, vale a dire opere tirate in tantissimi esemplari, per i quali i prezzi sono sempre più o meno quelli, e invece delle cose veramente rare. Ma anche in questo caso ci viene in aiuto internet, ci sono dei siti che accumulano tutti i dati delle battute in asta effettuati in tutto il mondo, e quindi, e sono gratis, è possibile fare delle ricerche in questi siti per poter ottenere già delle idee o delle valutazioni o delle stime fai da te. A proposito di idee, guardi Borghi, poi le mando tutti gli sms che ci stanno arrivando, perché si stanno aprendo tante di quelle parentesi che è un peccato non poterle affrontare. Ci sono degli ascoltatori che ci scrivono se, per esempio Salvatore da Roma, i tappeti antichi sono una forma di investimento. Luciano ci scrive: ma se uno manda una foto di un quadro comprato in un mercatino e mette questa foto sul forum che abbiamo citato prima e magari qualcuno lo riconosce come suo, cosa succede? E vabbè, ma se è finito in questo mercatino qualche motivo ci sarà stato. E ancora, su quale sito mi posso informare sul valore di un'opera? Io credo che lei dovrà fare un secondo libro, lo sa? Su tutti questi spunti, aveva già in mente di farlo, Borghi? O vuole fermarsi qua? Ho detto che non mi piace scrivere. Avrei voluto fare, magari, dato che per presentare il libro su Twitter avevo fatto un esperimento, allora ho provato, dato che chi mi segue di solito si occupa tanto di economia e poco di arte, ho provato a fare una specie di corso accelerato di storia dell'arte via Twitter, no? Allora, che si chiamava Un quadro al giorno, dove discutevamo tutti assieme online in diretta di un quadro, partendo dai primi quadri del Novecento fino agli ultimi, ed è stato molto interessante. Ecco, magari forse quello, però vabbè, comunque in ogni caso tutte queste risposte, dove si trovano i siti, dove ci si può informare, quali sono i siti delle aste e così via, le trovate nel libro. Sul libro queste informazioni le troviamo. Grazie a Claudio Borghi. Investire nell'arte, il nuovo oro, come salvare i propri risparmi dalla crisi. Speriamo di aver divertito i nostri ascoltatori questa mattina e speriamo anche di aver dato delle informazioni concrete per chi fosse appassionato a questo settore ma magari ancora non ha avuto il coraggio di avvicinarvi. Sì, grazie Borghi, buon 25 aprile di nuovo e buona giornata, presto. Grazie a voi. Salvadanaio torna, sì, domani, perché domani è venerdì. A tutti, buona giornata.